TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. A Versa si continua a lavorare dopo l'alluvione di una settimana fa. Le testimonianze e una nuova auto e una nuova pompa idrovora montata in vista del maltempo. A San Vito al Tagliamento è stata posata la prima pietra del nuovo impianto Cronospan, a lungo osteggiato dai comitati locali. 13 milioni per rinnovare il depuratore di Udine sulla base della direttiva europea sulle acque reflue, risparmiando energia. In partenza da Rauscedo verso 38 paesi del mondo, le barbatelle del principale produttore mondiale, sono 80 milioni lavorati ogni anno. Verso la giornata contro la violenza sulle donne, le iniziative di polizia e carabinieri a Trieste, denunce costanti dopo anni di crescita. Sport, basket, 3 vittorie per le squadre regionali in Serie A. Trieste ha sconfitto Milano in casa, Udine ha battuto Varese in trasferta, in Serie A 2 Cividale si è fermata a Pesaro. 12:31, buongiorno da Maria Spezia e Rita Micoli. Una settimana fa Versa, frazione di Romans di Sonzo, si risvegliava assediata dall'acqua e a Brazzano di Cormons intanto si recuperavano i corpi delle due vittime della frane. Siamo tornati nelle zone alluvionate dove oggi è scattata una nuova allerta meteo che proseguirà anche per tutta la giornata di domani. Il servizio non è ancora pronto, proseguiamo a questo punto con le previsioni meteo. Il cielo è coperto sulla regione, alle 11 c'erano 8 gradi a Trieste, 4 gradi a Udine, Gorizia e Pordenone. A Tarvisio 1 grado, a Tolmezzo 5 decimi di grado positivi. Sul Piancavallo 0 gradi, a Forni di Sopra meno 2 gradi, a Sappada meno 4, sul Monte Lussari meno 2, sul Monte Zoncolan meno 4, sulla costa a grado 6 gradi, a Lignano 4. Ed è pronto ora il servizio che abbiamo lanciato poco ora con il nostro reportage da Romans di Sonzo. È pronta per essere di nuovo messa in funzione a Versa una pompa idrovora aggiuntiva da piazzare sull'argine del torrente Iudrio. Il consorzio di bonifica della Venezia Giulia ne ha già una in zona, Turbina, prima posizionata sul torrente Versa, che potrebbe essere impiegata alla bisogna e su richiesta della protezione civile. L'idropompa più piccolina del comune è stata danneggiata dalla forza dell'acqua una settimana fa. Il municipio di Romans di Sonzo si sta attrezzando per fronteggiare questa nuova ondata di maltempo, ci spiega il sindaco Michele Calligaris. I canali di scolo scaricano sullo Iudrio, se il suo livello si alzasse la pompa idrovora aiuterebbe a buttare fuori l'acqua oltre l'argine. Chiesti anche dei sacchi di sabbia aggiuntivi, ma al momento la situazione appare sotto controllo. Intanto la pioggia non ferma i lavori di ripristino, si continuano a Versa a portare via dalle strade mobili e arredi distrutti. In comune dove si è spostato il punto di coordinamento dell'emergenza vengono distribuiti dai volontari vestiti e generi di prima necessità alla popolazione che ne fa richiesta, scarpe, pantaloni, maglie, asciugamani e detersivi, serve anche biancheria intima, è tutto diviso negli scatoloni per taglia e per genere, ci sono anche dei libri e giocattoli per bambini, il tutto portato dai residenti di Romans di Sonzo e dei comuni vicini. Poco distante visitiamo un'azienda vitivinicola completamente devastata dall'alluvione, distrutta la cantina vini di stoccaggio, così come l'area produttiva. La forza dell'acqua ha fatto ribaltare cisterne da 15.000 litri. Un solo macchinario danneggiato costava all'origine 200.000 euro, ci spiega il proprietario. Danni a 6 zeri, ci dice. Non so come faremo a riprenderci dopo questa catastrofe. Romans di Sonzo, Lillo Montaltomonella, TGR, Friuli Venezia Giulia. E passiamo dunque alle previsioni dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per questo pomeriggio. Cielo coperto, piogge da moderate ad abbondanti nella pianura e sulla costa occidentali, specie dalla serata da abbondanti e intense nella pianura e sulla costa orientale, anche temporalesche con possibili accumuli localmente consistenti tra Trieste e Gorizia. Sui monti precipitazioni da moderate ad abbondanti, anche intense sulle prealpi Giulie. Quota neve inizialmente sui 500 metri, in rialzo fino a 1200-1500 metri circa. In quota vento sostenuto da sud-ovest, in serata nella notte potrebbero soffiare libeccio moderato sulla costa. Per domani fino al mattino coperto con possibili precipitazioni in genere abbondanti, anche temporalesche nella fascia orientale. Nelle ore centrali della giornata possibili schiarite su pianure e costa, dal pomeriggio sera possibili rovesci o temporali sparsi con quota neve in calo fino a 800 metri circa. In serata sulla costa inizierà a soffiare bora. E adesso parliamo del caso Resinovic. Il quotidiano Il Piccolo di Trieste, in edicola oggi, riporta le rivelazioni di Alfonso Buonocore, un ex ristoratore amico della donna trovata morta il 5 gennaio del 2022 a Trieste. L'uomo sosterrebbe di averle consegnato in due diverse occasioni due sacchi neri dell'immondizia alcuni mesi prima della sua scomparsa. Liliana avrebbe chiesto al ristoratore, un amico di famiglia, di non dire niente della richiesta al marito Sebastiano Visintin. L'episodio sarebbe stato raccontato dal ristoratore a Visintin alcuni giorni fa. E stamattina Visintin è andato in questura a depositare la registrazione del colloquio avuto con Buonocore. Ad Anna Vitaliani, che lo ha incontrato in quell'occasione, Visintin non ha però nascosto dubbi sulle rivelazioni dell'uomo. Sono ferito e non sto bene. Sebastiano Visintin lo incontriamo a due passi dalla questura dove ha tentato di consegnare la registrazione fatta col suo cellulare delle dichiarazioni rese dall'ex pizzaiolo Alfonso Buonocore. Sabato mattina si è presentato davanti a casa sua, ha suonato il campanello per dirgli: tua moglie Liliana chiese a me due grandi sacchi neri e glieli diedi. Siamo con Sebastiano Visintin. Innanzitutto, che cosa pensa di queste dichiarazioni? È venuto lui da lei a dirle questo? E poi, dopo così tanto tempo, sono passati quasi 4 anni dalla morte di Liliana. È allucinante. Ma lui si è presentato dicendomi: più che altro devo dirti qualcosa di importante di Liliana. E io lì mi sono allarmato e avevo il telefono in mano e ho acceso la registrazione, che ce l'ho tutta, e quando sarò chiamato di nuovo, io sono andato stamattina in questura per consegnare questo, e non erano autorizzati, non lo so, non ho capito bene, sono stato lì 1 ora e mezza, poi a un certo punto ho detto che devo andarmene e mi hanno detto: sì, va bene, se c'è qualcosa ti chiameremo. Buonocore avrebbe detto: Liliana voleva pagarmi con 50 centesimi questi sacchetti, ma lui gli ha detto: vabbè, li metterò sul conto di suo marito, tanto siete clienti fissi. E lei avrebbe detto: assolutamente no, mio marito non deve sapere niente. Sconvolgente questo, perché Liliana, secondo me, non avrebbe mai fatto questo, secondo me, assolutamente. Ma lei crede a queste dichiarazioni? Sul momento le ho creduto, però adesso ho la mia riserva su tante cose che comunque vengono dette in queste 5 minuti e 30 secondi. Ci sono tante cose che verranno al momento giusto verificate, analizzate dagli inquirenti. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Voltiamo pagina. Il commissario europeo per i trasporti sostenibili e il turismo, Apostolo Tsitsikostas, ha visitato gli stabilimenti Fincantieri a Monfalcone, venendo accolto dall'amministratore delegato e direttore generale Pier Roberto Folgero, per constatare le capacità industriali del gruppo, le competenze nella costruzione di navi ad alta complessità tecnologica e l'impegno verso una transizione sostenibile e digitale del comparto marittimo. La delegazione ha visitato le aree produttive, una nave in costruzione, è stata ribadita la centralità dell'industria cantieristica fondamentale per la difesa e la sicurezza europea, con attenzione al dominio della subacquea e alla protezione delle infrastrutture critiche. L'amministratore delegato Folgero ha dichiarato: la visita ci ha permesso di condividere le nostre priorità, rafforzare la competitività industriale dell'Europa, investire in innovazione, digitalizzazione e decarbonizzazione anche attraverso tecnologie di lungo periodo e il recupero di segmenti di mercato strategici. E parte la realizzazione del nuovo impianto produttivo della Cronospan di San Vito al Tagliamento, un ampliamento dell'azienda che produce pannelli di legno, a cui si è lungamente opposto un comitato contrario all'opera. Ci sono volute 28 cause legali con sentenze di rigetto di ricorsi al TAR e Consiglio di Stato. Oggi Cronospan celebra la posa del primo pilastro del nuovo stabilimento di San Vito al Tagliamento nella zona industriale di Ponte Rosso. Un investimento da 300 milioni di euro che porterà all'assunzione di 210 dipendenti. L'impianto sarà pronto fra 3 anni. La produzione è quella di pannelli truciolari destinata al settore dell'arredamento. Nel corso della presentazione Massimo Cenedella, amministratore delegato dello stabilimento regionale della Cronospan, che conta una 40 di siti produttivi nel mondo, ha fatto un cenno alla storia dell'azienda austriaca, nata nel 1897 nel Salisburghese e oggi è leader mondiale anche nella produzione MDF, laminati e resine. Un'azienda che per il trasporto della materia prima ai siti produttivi dispone di 7 navi e 25 locomotive con oltre 900 vagoni. Sostenibilità indicata anche dalla produzione dell'energia, la metà del Lussemburgo. Nel nuovo stabilimento la ferrovia entrerà direttamente all'interno del fabbricato per un totale di 3,6 km di binari a disposizione della logistica. Il sistema del sito sarà basato su un'economia circolare, dalla raccolta delle polveri del legno alla nobilitazione dei pannelli per la creazione di nuovi prodotti dal legno riciclato. San Vito al Tagliamento, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Sono 13 milioni di euro stanziati per rinnovare il depuratore di Udine a fronte di una progettazione di potenziamento del consorzio acquedotto del Friuli Centrale. L'annuncio è stato diffuso in conferenza stampa Udine da parte della società che gestisce il servizio idrico integrato in 122 comuni del Friuli Venezia Giulia. Prevista entro 2 anni l'avvio della gara per i lavori e una nuova linea di trattamento, sono attesi i benefici energetici di efficienza in linea con la nuova direttiva europea sulle acque reflue. Il progetto da 13 milioni di euro prevede di ammodernare e potenziare l'esistente impianto di depurazione cittadino di Via Gonarse con sistemi innovativi all'avanguardia a zero emissioni per aumentarne la capacità e migliorarne affidabilità ed efficienza anche in chiave energetica. È prevista tra l'altro la realizzazione di una nuova linea biologica di trattamento delle acque reflue, di un nuovo comparto di disinfezione, la costruzione di un bacino di raccolta per l'eventuale riutilizzo in agricoltura e nell'industria delle acque trattate. La progettazione dell'opera è partita entro 2 anni, l'avvio della gara per i lavori, annuncia in conferenza stampa il presidente della Utility, Salvatore Benigno, rientra tra gli interventi concreti di sostenibilità che uniscono tutela ambientale, innovazione e valore per la comunità messi in campo negli ultimi 10 anni dalla società di gestione del servizio idrico e risponde agli obiettivi della nuova direttiva europea sulle acque reflue che va recepita entro il 2027 e che introduce standard più rigorosi per la raccolta e il trattamento delle acque reflue, promuovendone il riutilizzo per preservare le falde acquifere, spiega Benigno, sottolineando che si tratta di scelte che rappresentano il futuro del servizio idrico. Per il sindaco di Udine, Alberto Felice Letoni, un passo fondamentale per la qualità della vita dei cittadini e per il futuro sostenibile della città. Un intervento che va nella stessa direzione delle scelte operate dalla Regione nell'ambito della transizione energetica e nell'ottica di un gestore unico regionale dei servizi, evidenzia l'assessore regionale all'ambiente Fabio Scoccimarro, richiamando gli oltre 30 milioni di euro assegnati attraverso l'autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti al sistema dei gestori negli ultimi anni e nello specifico i 4 milioni di euro per il riutilizzo delle acque depurate per uso irriguo e industriale in un'ottica di sviluppo sostenibile. Lara Boccalon, TGR, Friuli Venezia Giulia. È tempo di raccolta e selezione delle barbatelle, le piantine di vite a Raucedo, nel Friuli occidentale c'è il maggiore produttore mondiale, siamo entrati negli stabilimenti dei vivai cooperativi. Ai vivai cooperativi Raucedo siamo nel pieno delle attività di raccolta e cernita delle piantine da vite. Enrico D'Andrea, il vicepresidente dei vivai, come stanno andando le lavorazioni? Stanno andando bene, procediamo a un buon ritmo, andiamo a selezionare 2 milioni di piante al giorno, quindi per la nostra cooperativa è un buon risultato. In tutta l'annata andiamo a produrre sui 70 milioni di barbatelle e l'annata sta andando molto bene. Quali sono le varietà più richieste? Le varietà più richieste sono, come ormai da qualche anno, tutte le varietà bianche, che dopo andranno a produrre sia spumanti che vini fermi, mentre i rossi arrancano purtroppo ancora. Quante persone stanno lavorando in queste settimane? In queste settimane nei nostri magazzini occupiamo 1300 persone di diverse nazionalità, soprattutto nazionalità indiane e dell'est Europa. Rauscedo di San Giorgio della Ricca in Belda, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. Fondata nel 1945, la Bortolin Chemo di Porcia ha saputo trasformarsi da bottega artigiana a stabilimento all'avanguardia di macchinari per imballaggi e chiusure di bevande e alimenti progettati su richiesta. Oggi la sua storia è raccontata nel libro intitolato L'arte di imbottigliare, che è stato scritto da Francesco Raggiotto, docente di economia dell'Università di Udine, che lo presenterà a Pordenone al Polo Tecnologico Alto Adriatico Galvani in via Roveredo alle 17. Con l'autore abbiamo parlato dell'eccellenza raggiunta dall'azienda nella personalizzazione dei macchinari. Di fatto l'azienda non produce in serie, è proprio la classica produzione su commessa, dove ogni macchina rischia di diventare un prototipo, cioè un sistema su cui si testano nuove soluzioni e poi magari vengono, diciamo, riproposte in maniera diversa per le esigenze di altri clienti. L'azienda ha un dipartimento di progettazione estremamente avanzato. Come è stato possibile arrivare a questo punto? L'impresa fondamentalmente nel tempo non si è solo affermata come leader tecnologico, ma si è anche affermata come un'impresa fedele ai suoi valori. È un'impresa che dopo 80 anni di operatività continua ad essere percepita da chi ci ha lavorato, che da chi ci lavora, come un'impresa umana. Questo evidentemente è un attrattore formidabile di talenti e di talenti specifici, nel senso che le professionalità che un'azienda di questo tipo richiede sono professionalità comunque non disponibili in enormi quantità sul mercato. Abbiamo bisogno di ingegneri, di meccatronici, di esperti, di abili tecnici, anche meccanici, non vanno individuate, vanno motivate. Voltiamo pagina. In occasione della giornata contro la violenza sulle donne di domani, carabinieri e polizia hanno presentato a Trieste le loro iniziative, hanno fatto un bilancio della situazione dopo una crescita delle denunce negli anni scorsi. Per questo 2025 è stato sottolineato, i numeri sono rimasti costanti, il servizio. Metti un punto. Parte così la campagna dell'Arma dei Carabinieri per sensibilizzare i cittadini in vista della giornata contro la violenza sulle donne. A Trieste sarà visibile uno spot sullo schermo della Luminosa, la storica edicola di Via Carducci, che sarà trasmesso anche sugli autobus urbani fino a metà dicembre. Il colonnello Gianluca Migliozzi, comandante provinciale dei Carabinieri di Trieste. Tra i vari obiettivi ha un obiettivo strategico, quello di informare e comunicare a tutta la cittadinanza quelli che sono veramente i pericoli, i risvolti e i rischi connessi con questo fenomeno veramente odioso. Il filmato informativo, che sarà diffuso in tutta Italia, mira a mettere in guardia sui cosiddetti reati spia, che vanno dai maltrattamenti in famiglia allo stalking e anche sui comportamenti antisociali in cui il partner prevarica. Dopo l'incremento delle denunce degli anni passati, dovuti anche alle campagne di sensibilizzazione, i dati per il 2025 restano costanti, ma sempre allarmanti. Lo conferma anche la Questura di Trieste durante un incontro sul tema. Per quanto riguarda gli omicidi, su un totale nazionale di 224, 98 sono avvenuti in ambito familiare, con 60 vittime donne. Nel capoluogo quest'anno ci sono stati 60 ammonimenti, su un totale nazionale di 7.000. Il dirigente della squadra mobile di Trieste, Alessandro Albini. Trieste è una città dove in linea di massima si denuncia. Io, rispetto ad altre esperienze, sembra essere una città più sensibile a questo tipo di problema. Le istituzioni in generale, tutte, non solo le forze di polizia, sono estremamente sensibili a questo tipo di problema. Certo che l'attività deve continuare. L'attività, secondo la polizia, deve cominciare dalle scuole e coinvolgere tutti i cittadini, chiamati, se possono, a indicare anche le situazioni difficili di cui sono testimoni. La vice dirigente della squadra mobile di Trieste, Federica Esposito. Ci sono tante situazioni sommerse di cui noi purtroppo non siamo al corrente, non ne conosciamo, quindi il lavoro di tutti dovrebbe essere quello appunto di farsi portatori e segnalarci, la società dovrebbe segnalarci situazioni di cui noi non siamo al corrente. Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Passiamo allo sport, iniziando dal basket di Serie A, che nella nona giornata ha registrato le vittorie di Trieste e Udine, con i giuliani che hanno avuto la meglio in casa su Milano, mentre Udine ha battuto Varese in trasferta in un successo chiave in ottica salvezza. Trieste conferma l'andamento positivo dopo il successo europeo. Istanbul soffre nel finale ma la spunta contro Milano 86-82 grazie a una grande prestazione di squadra e dell'MVP di serata Ramsey. È lui che negli istanti finali sull'82 pari riporta in vantaggio i suoi con la penetrazione a canestro che vale la vittoria. Inizio equilibrato con Milano che conduce fino al 16-14 ma rimane quasi sempre a contatto e mette la testa avanti nuovamente a 4-20 dalla fine azzerando il -8. Poi sorpasso e controsorpasso, tripla di Ramsey, 2 di Brooks da sotto, con i padroni di casa concentrati nel portarla a casa, vedi Sissoko che ferma la layup per Nibo. Dopo il nuovo vantaggio, Ramsey ipoteca la pratica con 2 liberi a segno. Per lui 26 punti, 6 da 8 da 2 e 3 su 6 da 3. Importantissimo successo in chiave salvezza per Udine a Varese, chiude in vantaggio il primo quarto 21-17. Varese non segna per i primi minuti del secondo quarto e Ikanji e Benzius firmano il +12. I lombardi sprecano molto tra errori dalla lunetta e triple sbagliate. Moore prova a reagire in contropiede ma non basta. Udine resta solida con Hickey e i liberi finali. Nel terzo quarto i lombardi continuano a sbagliare molto mentre da Ross, Hickey e Bruton in contropiede firmano l'allungo fino al 36-52. Nel finale Varese reagisce arrivando a -8 ma Udine risponde con Hickey, migliore dei friulani, per lui 16 punti, Mekovulu e Ali Begovic. L'Old Wild West controlla e chiude la gara 59-66 staccandosi dal fondo classifica. Dopo la pausa il campionato riprende a dicembre. Andrea Marušić, TGR, Friuli Venezia Giulia. Rimaniamo nella pallacanestro perché in A2 c'è stata una vittoria netta anche per Cividale contro la capolista Pesaro, battuta per 79-68, quarto successo di fila per gli uomini di Pillastrini. Ottimo l'avvio dei ducali, subito efficaci nel tiro da fuori. Pesaro prova a rispondere ma fatica a trovare continuità offensiva e soprattutto non incide dall'arco. Ferrari e Mastellari guidano l'attacco con percentuali alte mentre Freeman garantisce presenza sotto canestro. Solidità offensiva che vale il 31-41 a riposo. Pesaro tenta poi l'aggancio nell'ultimo quarto aumentando l'intensità. Parziale di 7-0 per Pesaro in avvio ultimo quarto con tripla del pesarino Felder, che vuol dire -2 dei padroni di casa sul 65-67. I ducali però non si scompongono, Redivo tiene in mano il ritmo, Rota firma un canestro chiave, Mastellari piazza la tripla che spezza definitivamente la gara per il +9 ad una manciata di secondi dalla sirena finale. Prestazione straordinaria proprio per la guardia Martino Mastellari che ha chiuso il match con 20 punti. Menzione per Freeman, 16 punti e 10 rimbalzi, e per Francesco Ferrari con 15 punti. Punti a referto. Andrei Marušić, TGR, Friuli Venezia Giulia. Passiamo al basket in carrozzina. La Castelvecchio Gradisca ha vinto la prima partita del girone di andata del campionato di Serie B. La squadra si è imposta sull'Albatros Trento per 78-26. I gradiscani hanno condotto la partita in testa sin dai primi minuti di gioco e al riposo erano in netto vantaggio nei restanti due quarti. Coach Fagone ha messo in campo tutta la formazione a disposizione con tutti gli atleti a canestro. La prossima settimana in calendario la complicata trasferta a Verona. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio regionale. In regia Roberto Cavallari e Carlo Morello. In redazione ha collaborato Laura Sarasini. Prossimi appuntamenti con l'informazione della TGR del Friuli Venezia Giulia, il telegiornale sul terzo canale televisivo alle 14, l'informazione radiofonica invece su queste frequenze alle 15. E da Maria Spezia e Rita Micoli, grazie per l'ascolto, l'augurio di un buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.